campanile, mi è stato il lasciaggio a chi gli imbro, io c'è un'altra che si torna e parlo l'altra con il bo, io non è!